Un salutone a tutte e tutti, nuova puntata di Passaggio al Nord Ovest, la rubrica di Radio Wombat che parla appunto di quello che accade nella periferia, nella parte nord-ovest della città di Firenze, fatti raccontati da chi in questi quartieri ci vive e ci lavora. Ricordiamo, il Passaggio al Nord-Ovest va in onda tutti i lunedì alle 14.30 e in replica il martedì e il giovedì alle 13.30 e mercoledì e il venerdì alle 14.30. E questa volta invece, infatti, parliamo di un luogo. Parliamo di un luogo un po' più in là di Firenze, nel comune di Sesto Fiorentino, e di questo luogo, insieme a chi l'ha vissuto fino da quando è nato sostanzialmente, vogliamo fare una geografia e una storia e nello stesso momento ripercorrere appunto quelli erano i rapporti amicali, i rapporti sociali tra di loro. Parliamo del Neto appunto, e partiamo subito con una prima domanda a chi c'è qui, insomma, quattro ragazzacci che erano ragazzacci allora e sono bad boys tuttora, si può dire. Sì. Come mai si chiama Neto, ecco? Allora, il Neto, il quartiere del Neto è nato praticamente intorno al Parco del Neto, è un parco storico, esiste dall'Ottocento praticamente, che ha vissuto, insomma, un parco naturale bello, ci abbiamo passato tanti anni e è bello figo, e il quartiere, insomma, è nato d'intorno, era un quartiere che non esisteva fino alla metà degli anni Ottanta, erano solo campi, e la nostra amministrazione ha deciso di costruirci, boh, quanti saranno? 6.000, 7.000, 8.000, non lo so quante persone ci sono. 600 nuclei familiari. 600 nuclei familiari, sì. E questi 600 questo quartiere praticamente è stato costruito dall'Edilcop, che giustamente cosa ha fatto l'Edilcop? Ha costruito il quartiere e poi ci ha messo la Hop in mezzo, perché dovevano vendere e penso ce l'abbiano fatta abbondantemente, purtroppo. E questo quartiere appunto nasce a metà degli anni Ottanta, ospitando 600 nuclei familiari e noi purtroppo per fortuna veniamo da lì. Ecco, delimitiamo un po', non tanto i confini, però diciamo... Il Neto praticamente è situato tra Sesto e Calenzano, praticamente più a nord di Sesto, più vicino a Prato che a Firenze, se proprio vogliamo dirla tutta. Sì, è situato proprio lì, dalla parte nord della ferrovia. E quindi da un lato c'è la ferrovia, dall'altro lato c'è Viale Pratese e il Parco del Neto. Il Parco del Neto. Sì. Ecco, un po' più in dettaglio la nascita, come mai sostanzialmente c'è stato il comune di Sesto che ha individuato un'area, diciamo, non più utilizzata e come sono state le procedure? Perché è andata a finire che ci ha costruito questa ditta in particolare? Ecco, come i campi di chi erano proprietari? Sì, ecco, allora, l'antefatto, ecco. Ecco, partiamo da ciò che è stato. Allora, in sostanza i terreni erano dello stesso proprietario del Parco del Neto, ovvero il Conte Gamba, che aveva la villa alle pendici della collina. Cosa è successo? Edilcop, all'epoca c'era una legge che consentiva, poi è stata dichiarata incostituzionale, guarda un po', che consentiva agli enti pubblici di espropriare terreni privati per realizzare opere di edilizia pubblica, non solo case popolari, perché in questo caso poi già fin dalla partenza ha diciamo alcuni alloggi popolari che tuttora ci sono, diciamo il grosso degli alloggi poi sarebbero stati privati, insomma. Cos'è successo? Edilcoop, questa cooperativa rossa, per così dire, di emiliana, comprò i terreni a un prezzo stracciato, terreni agricoli all'epoca, a questo nobile. Dopodiché il comune li espropriò a Edilcoop attraverso la procedura d'appalto, guarda caso vinta la stessa Edilcoop, poi fu possibile procedere alla costruzione. E questo è diciamo un meccanismo che all'epoca era abbastanza comune e che probabilmente con lo zampino di amministrazione onnivente e palazzinaria ha fatto buttare giù non so quanti milioni di metri cubi di cemento in tutta Italia. Però insomma, diciamo che all'epoca, per quanto riguarda il Neto almeno, c'era anche una funzione, diciamo così, sociale, perché comunque era un'opportunità per, diciamo, i ceti medio-bassi di ottenere un alloggio, di poter avere un alloggio di proprietà non a prezzi di mercato. Ecco. Poi in seguito cosa è successo? È successo che la legge è stata dichiarata incostituzionale e, diciamo, c'è stato un effetto retroattivo della sentenza, per cui poi di fatto gli inquilini si sono dovuti... hanno dovuto ripagarsi i terreni che erano stati espropriati dal comune con i soldi di tasca, e poi non solo hanno dovuto ripagare la strada, hanno dovuto ripagare anche tutte quelle opere. Tutte le opere di urbanizzazione. No, il parcheggio della Coop. No, la Coop, proprio la Coop, anche la Coop rientrava. Sì, la Coop l'ha ripagato, però il parcheggio in teoria era a carico di tutti. Dice il comune obbligò la Coop a ripagarsi il parcheggio, perché sennò era una cosa paradossale diventata. E niente, appunto, questo è un po'... Cioè, diciamo, l'idea era quella di fare una sorta di villaggio un po' autonomo, no? Che era questa idea... Quindi ecco, appunto, la Coop era si configurava come un servizio, anche se era sì, un servizio preciso. Dei privati. Infatti c'è la Coop, non a caso c'è il bar, c'è la farmacia, c'è... un negozio di ottica, c'è la scuola e l'asilo dall'altra parte della strada, cioè doveva essere un, diciamo, micromondo, sì. Quasi autonomo, che in realtà, cioè, se lo vedi agli occhi di oggi, sembra, cioè, visivamente parlando è abbastanza imbarazzante, però poi se parli con chi ci vive e ci è tornato a vivere anche in epoca successiva, in realtà questa dimensione è parecchio apprezzata. Ecco, la costruzione, ecco, c'è stato l'esproprio dei terreni e sono stati ceduti quasi gratuitamente, se non gratuitamente, alla ditta Edilcoop. E ecco, la costruzione è durata. Ci sono state particolarità nella costruzione? Ma se il progetto, mi sbaglio, se non sbaglio, è dell'80, i primi... Primi appartamenti nell'84. Nell'83 sono stati, sì, abitati. Stati consegnati, perché poi sì, essendo diviso, essendo molto grosso, alcuni sono stati consegnati prima, altri dopo. E no, la costruzione, mio padre mi ha detto che è andato tutto bene, insomma. Mio padre faceva il gruista all'epoca. Ma abitava diciamo a Firenze? Stava praticamente abitava lì dall'altra parte della strada rispetto a dove ora c'è il complesso del Neto, dove c'erano degli edifici antecedenti degli anni 60, dove ci abitavano e ci abitano tuttora i miei nonni, e mio padre era ospite lì, quindi lui l'ha proprio vissuto, cioè ci è andato la prima volta quando c'erano i campi e ci ha vissuto fino al 2005, quindi si è visto proprio tutta la costruzione, l'ha costruito, quindi. Ecco, e prima ci dicevate appunto di questo, come dire, di questa sorta di villaggio, di questa sorta di insediamento autonomo. Come è configurato? Quanti sono alti? Sono 4 piani, 5 piani? Ci sono spazi di socialità oltre a quelli, ci sono spazi di socialità oltre a quelli, diciamo, prettamente commerciali, che anche se pur di servizio, però sono spazi commerciali, ecco. Sì, allora sono suddivisi praticamente, diciamo, in due versioni, la versione A e la versione B. Da un lato sono su 6 piani e dall'altro lato il lato interno, che praticamente dà sul il giardino che è dietro, sono a 5 piani. E poi c'è tutta una serie di palazzi che rientrano comunque nel quartiere del Neto, che non si vedono perché ci sono appunto i palazzi più alti davanti e sono quelli proprio lungo la ferrovia, sarebbe la zona di Via Parini, che sono una sorta di pseudo villetta che però in realtà, come si diceva prima, visivamente sono un po' imbarazzanti, che sono tutti prefabbricati, messi uno sopra l'altro e sono a tre piani. E niente, più o meno è strutturata in questa maniera, con tutta una serie di piccoli giardinetti e cunicoli interni, diciamo, tutti questi ponti in ferro di collegamento che passano fra un palazzo e l'altro, e insomma, un po' in questa maniera qua. E ecco, dicevate precedentemente 600 nuclei familiari, com'è la composizione? Ecco, lavoratori dipendenti? Nella stragrande maggioranza sì, c'è giusto, penso, una piccola parte di lavoratori magari autonomi, tra questi per dire, vabbè, il mio babbo è per dire è un padroncino, però ecco, non è che ci sono grandi professionisti, ecco, magari non lo so, ecco, voi vi ricordate qualche grande architetto, cose così per dire, no, tendenzialmente no. Sono tutti dipendenti, cioè mediamente dipendenti. Sì, poi, cioè, nel senso, all'epoca chi... diciamo la grande maggioranza delle persone che ci sono tornate ad abitare erano giovani coppie, sì, sì. Comunque diciamo per quanto ci fosse, cioè la situazione economica era diversa, insomma, cioè il giovane che magari svolgeva un lavoro dipendente, ma all'epoca la coppia magari non era nella stessa condizione economica di oggi. Cioè poi diciamo i quartieri appunto della zona fiorentina dove è stato, diciamo, dove sono stati creati, diciamo, ghetti per la marginalità sono altri, però comunque lì l'estrazione è, sì, diciamo, ceto medio basso, insomma, sì, sì. Anche perché appunto se no chi aveva la possibilità, cioè tuttora chi ha la possibilità, almeno tra i se stessi che rimangono molto attaccati a questa, sono molto gelosi del loro essere, non essere della piana, contadini della piana, chi può va abitare in collina, no, o no, non di certo nella piana, anzi Neto è stato uno dei primi insediamenti, diciamo, che ha guardato alla piana come sbocco. Ora poi, cioè, se a sud della ferrovia prima c'era solo il borgo di Padule e ci andavi attraverso... Che è un borgo storico, tra l'altro. Sì, che è un borgo storico. Sì. E ci andavi attraverso i campi, adesso non c'è soluzione di continuità, sono tutti nuovi insediamenti, magari un po' più carini da vedere rispetto ai palazzi nostri, che sono color grigio topo. Però insomma, sono, cioè, lo sviluppo è andato in quella direzione lì, ecco. E ci mandiamo un primo pezzo musicale e lo facciamo annunciare direttamente da uno degli intervenuti. Sì, perché dai sobborghi fiorentini skin e punk sono arrivati e mettono gli Anthrax, anche se sono poco skin e poco punk, ma siamo cresciuti anche con questa roba qui. Got the Time degli Anthrax. Yeah. Ci siamo ascoltati gli Anthrax e continuiamo con la trasmissione. E chiediamo a uno dei soggetti che intervengono stasera, un po' più giovane, ecco, gli chiediamo gli spazi di socialità di questo quartiere, come erano e come sono tuttora, come si sono evoluti nel corso del tempo, ecco. Ma ecco, lì a Neso, cioè, innanzitutto lo skate park per me è stata la prima cosa che ho incontrato come spazio di socialità proprio a Sesto, perché io ci sono arrivato tipo a 12 anni più o meno e quello è stato il primo posto dove uscire, anche dove beccare altri ragazzi. E poi c'è la bocciofila lì accanto, che appunto sono contingenti, entrambe vicino alla stazione, e che anche lì insomma comunque è uno spazio di aggregazione, ci vanno i vecchietti, ci vanno i ragazzi, un po' così. Lo skate park che è nato credo una quindicina anni fa, primi 2000, hanno tirato, non so, magari qualcuno se lo sa meglio, però hanno tirato sullo skate park prima del 2000. Sì, poi ovviamente tutto c'è il giardino, dove anche lì ci sono, perché ci sono due scuole, la scuola, l'asilo e l'elementare, che sono sempre tutte lì vicino, accanto proprio a Palazzi Popolari, fra quelli e palazzi dopo, quelli verso la Ginori, e lì appunto lì accanto c'è i giardini della Coop di cui si parlava prima, e sono appunto lì dentro le case. Una particolarità secondo me del Neso è che si sente il rumore, la sirena della Ginori, che tutte le mattine a distanza di 5-10 minuti da due sveglio. Ecco, ma questo skate park, così come gli altri, magari se ci sono altri spazi di socialità, era stato costruito precedentemente e diciamo l'avete trasformato voi in un certo senso? No, niente affatto. Prima c'era il basket. E... sì, diciamo, quello è nato proprio prima inizio degli anni 90, come una pista di pattinaggio, e dove intorno ancora non c'era nulla, c'era praticamente un campo, la pista di pattinaggio e una carrozzeria. E tipo mi ricordo già noi tipo a metà degli anni, che era il 95-96, sì, si andava, quando vennero fuori tipo i primi rollerblade, i primi pattini in linea, ci si andava a pattinare. Poi una signora, che non mi ricordo come si chiama, Amara, ebbe questa idea geniale, tramite un'associazione, di praticamente creare un luogo dove poter pattinare e fare, insomma, fare gli sport, diciamo, da tavola o coi pattini e queste cose qui, e quindi poi è nato appunto il luogo che ha conosciuto lui e niente, poi così. Ecco, prima avete parlato, diciamo, che di una certa, di una composizione abbastanza omogenea da un punto di vista, come dire, lavorativo e via dicendo, ma da un punto di vista della provenienza, cioè erano tutti fiorentini oppure no, e quindi con no, i classici, cioè, problemi di integrazione e via dicendo, ecco. Essendo allora, cioè, all'epoca, a metà degli anni 80, inizio 90, così c'era molta immigrazione, c'è stata anche precedentemente, io sono l'esempio, e anche il dal sud, e cioè, c'era un bel mix tra fiorentini e non solo, cioè, tanta gente di giù, tanti siciliani, calabresi, pugliesi e non solo, cioè, appunto il fatto che quelle case costavano relativamente poco ha favorito tanta gente ad andare a vivere lì, magari gente che già stava in zona, cioè non il primo, quello che viene su, trova lavoro e poi prende casa lì. Stai già lì, poi vedi e la compri. Cioè, anche mia zia, che tendenzialmente sta a Firenze dagli anni 70, appena ha visto che c'erano quelle case lì che costavano poco rispetto ad altre, è andata a vivere lì. E, insomma, era molto misto sotto questo punto di vista. La cosa bella del Neso, cioè di quel quartiere lì e di come ce lo siamo vissuti noi, erano gli spazi di socialità. Perché, cioè, noi siamo cresciuti insieme, oltre ad andare a scuola insieme, perché fondamentalmente poi la scuola era dall'altra parte della strada rispetto a dove abitavamo, quindi andavamo a scuola insieme e poi ci vedevamo anche dopo scuola e stavamo sempre insieme, tutti insieme, ma non solo noi bambini, cioè anche i nostri genitori infatti vuole chiedere sono questo, usciti ecco. Insieme per degli anni. Sì, infatti diciamo che appunto è costruito, come si diceva prima, in un modo che praticamente chi ci abita abbia innanzitutto un po' tutti i servizi e di conseguenza anche per i bambini che diciamo quando si era piccolo di noi c'era tanti bambini, cioè non come ora sono, per dire c'è tanta gente, c'è tornata a stare, ma sono tante coppie singole, bambini ce n'è poi. Appunto addirittura ci sono tutti questi giardini dove anche i genitori stavano fuori, però cioè non in una situazione di controllo del bambino, perché comunque era una situazione appunto molto ampia, ma tendenzialmente diciamo chiusa, e a viverla diciamo da bambino era anche molto divertente, se vogliamo, e ti permetteva di andare a scuola da solo, di andare per dire alla farmacia, di fare tutta una serie di cose che poi sviluppavi anche magari cioè delle abilità a relazionarti per dire anche con gli altri bambini, insomma non è che era come stare in centro a Firenze e magari esci e c'hai lo stradone e non c'hai neanche un giardino, ecco, per stare con degli altri bambini. Da quel punto di vista diciamo ci aveva dei fregi. Sì, anche perché magari non era favorito dal fatto che le abitazioni erano collegate tra di loro, diciamo, cioè non c'era da attraversare un'autostrada come via se stesse, diciamo, insomma, no molto... l'unico diciamo i limiti geografici lì erano la ferrovia da una parte praticamente invalicabile, e dall'altra il viale Pratese, ma il bambino, cioè diciamo il ragazzino, non c'era nemmeno bisogno di andare di oltrepassare sto limite, cioè c'avevi noi avevamo la cosiddetta piastra, che non so da dove deriva sto nome, ma io l'ho sempre, non mi sono mai nemmeno chiesto il perché di questo nome. Forse la gente non capiva e diceva ma la piazza, no la piazza, che era semplicemente piastra, questa zona, questo giardinetto delimitato dai due blocchi di palazzi, c'erano la piastra di sopra e la piastra di sotto dove abitava Ivan. Che era di sotto perché era più vicino alla ferrovia, anche il dislivello era un pochino più bassa. E appunto questi erano luoghi dove comunque appunto passavi la sera d'estate, ci trovavi seduti allo scalino a chiacchierare, appunto i bambini che giocavano, i genitori. Comunque, era un micro mondo su pregi e anche su difetti, insomma, perché poi non so. E ci sentiamo un altro pezzo musicale, sono i Clash con una canzone, un pezzo che mi sembra abbastanza adatto all'occasione, Stay Free. Isn't Ecco, e il rapporto con il resto, ecco, perché qui c'è questa situazione qui, però diciamo nello stesso momento non è che chi ci abitava diciamo era confinato lì, ecco, insomma c'era rapporto in interscambio in altri con i quartieri vicini oppure eravate proprio gelosi, ecco, diciamo. No, noi cioè quando eravamo piccoli quello che ci piaceva fare era appunto fare diciamo le incursioni, la scusa, andare a prendere il gelato la sera dopo cena d'estate, si partiva verso, si passava sotto la ferrovia e si andava verso Padule. E lì era insomma un po' terra straniera, ecco, però questo diciamo a fine anni, inizio questo... metà anni 90. Primi 90, metà 90. Ma la situazione, ecco, è continuata anche successivamente oppure ha un po' risentito diciamo dei problemi del tempo, ecco, insomma ma si può dire successivamente è continuata per quanto riguarda l'uscire ai parchini, lo stare insieme, sì, io poi appunto ci sono stato da adolescente, per cui per me è stato tanto tempo i giardini e lo skate park, però sicuramente è cambiato, credo, in funzione anche, non so dove studiavano loro, comunque le persone con cui si usciva non erano esclusive, cioè io uscivo con un sacco di ragazze e stavano in altri quartieri di Sesto, però c'era il gruppo ristretto con cui stavamo al Neto e ci andavamo al giardino o così. Poi anche sì, Padule di sotto era sì, un posto dove io personalmente avevo tanti amici, per cui per me è tutta la zona più che il legame con il Neto stesso, cioè anzi io penso di aver vissuto sicuramente una situazione diversa anche dalla loro, anche per esserci arrivato dopo, cioè io non avevo gli amici d'infanzia al Neto, ma ce li avevo da altre parti, cioè per lo più a Morello in realtà. E finisce qui la prima parte dell'intervista. Vi diamo appuntamento per la prossima trasmissione di Passaggio al Nord Ovest con la seconda parte dell'intervista. Vi ricordiamo anche che tutti i podcast di Passaggio al Nord Ovest li potete scaricare, ascoltare o scaricare per poi ascoltarli successivamente andando sul sito di Radio Wombat, wombat.unoblogs.org, alla sezione podcast. E successivamente alla sezione Passaggio a Nord-Ovest. Ricordiamo anche che alle 15.30 ci sarà una nuova trasmissione di Radio Wombat, Passaggio a Nord-Ovest, stampa rassegnata, quindi appunto una rassegna stampa rispetto a quello, alle notizie, una lettura critica delle notizie appaiono su i quotidiani locali rispetto a... alla piana e all'area nord-ovest della città. Ciao ciao.